Buonasera signore, buonasera signori, riprendiamo con questa serata il ciclo di conferenze e di presentazioni organizzate dalla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. E questa sera abbiamo il piacere di riavere con noi un volto molto conosciuto al nostro pubblico, il dottor Frangipane, che è qui in veste di romanziere questa volta, che quindi ci parlerà della sua ultima fatica letteraria coadiuvato dal dottor Mastrolia. Non voglio svelarvi nulla della trama del romanzo, e quindi sarò breve, vi ringrazio ancora e tutto lo staff vi aspetta in biblioteca. Vi porgo anche i saluti della nostra direttrice, la dottoressa Trevisan, che purtroppo si è infortunata e che quindi questa sera e per le prossime serate forse non potrà essere qui. E grazie a tutti, porterò i vostri auguri. Prego. Grazie. Bene, ci associamo tutti naturalmente agli auguri già espressi per la dottoressa Trevisan, che pare abbia avuto un incidente sugli sci. Speriamo che torni presto sul posto di lavoro, sano e salvo. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, numerosi vedo. Questa sera io devo ringraziare prima di tutto la Biblioteca Claudia Augusta per averci dato la possibilità di presentare questo nuovo libro, questo romanzo di Ettore Frangipane. Io sono qui in qualità di presidente dell'Associazione Scrittori Bolzano, ma l'amico e socio fondatore della nostra associazione, Ettore Frangipane, mi ha chiesto di presentare, di dire alcune cose su questo libro, e ho accettato volentieri e lo ringrazio naturalmente per la stima e per l'onore che mi ha riservato. Ecco, Ettore Frangipane non c'è bisogno di presentarlo perché lo conoscono tutti, ma c'è da sottolineare che lo conoscono non solo in questa provincia o regione, meglio, lo conoscono anche fuori di questa regione. Lui è conosciuto addirittura anche a Roma, oltre che in Sicilia, a Messina, perché ha ricevuto l'anno scorso un premio a parti sul romanzo storico, non è poi tanto romanzo, come Garibaldi sullo Stelvio, ma ha ricevuto anche recentemente una menzione di merito a Roma per questo libro che l'ha presentato stasera, per un premio letterario che è intitolato Scriviamo insieme a Roma Capitale. Quindi, con questo voglio sottolineare che Ettore è conosciuto non solo in questa città, in questa provincia e regione, ma anche fuori da questo territorio. Naturalmente conosciamo tutti quanti Ettore Frangipane più che altro come esperto di storia locale, soprattutto del cosiddetto Bolzano scomparsa, di cui lui ha scritto molte opere, oltre che aver tenuto per anni una rubrica sul quotidiano Otto Agi intitolato appunto Bolzano scomparsa. Ma Ettore, come dicevo, non è soltanto esperto di storia locale di Bolzano scomparsa, ma anche di storia, e quindi Garibaldi sullo Stelvio, quest'opera notevole, ne è certamente la prova. Questa sera però, come già è stato detto poc'anzi, lui si presenta con un romanzo, quindi è, diciamo così, una veste nuova, fuori dal cliché con cui noi siamo di solito abituati a pensarlo, a conoscerlo. Si presenta come romanziere. È un romanzo di fantasia, ma io direi neanche tanto di fantasia, perché ci sono direttamente o indirettamente parecchi riferimenti, non solo di carattere autobiografico, semi nascosti, diciamo così, ma anche a carattere locale, di storia locale, almeno di costume, di comportamenti, di modi di essere, di vivere in questa Bolzano di una volta e di oggi. Il titolo dell'opera, Il pensionato, e tra parentesi e la ragazza, è un titolo che di per sé è un pochino intrigante, perché lascerebbe pensare a chissà quale avventure, no? Chissà quali fatti, eventi, diciamo così, di particolare tipo. In realtà non c'è niente di del genere. È un libro però che si lascia leggere molto molto volentieri, direi d'un fiato, sembra quasi uno di quei libri gialli, no? Quei libri che noi una volta che incominciamo a leggere poi non vediamo l'ora di finire, di andare avanti e capire come è andata a finire. Anche in questo caso, se si comincia a leggere questo romanzo, subito nasce la curiosità e direi quasi l'ansia di vedere come va a finire questa storia. È una storia leggera, una storia simpatica che vede due personaggi. Uno è il pensionato, che però nel libro Ettore preferisce chiamare il vecchio. Non so perché, magari ce lo dirà lui dopo il motivo. Perché sono vecchio. Vabbè, ma siccome non è prettamente autobiografico e quindi allora dobbiamo capire il vecchio perché. Dall'altra parte l'altro personaggio è questa ragazza, una ventenne, sconosciuta, di cui il personaggio, il vecchio, ovvero il pensionato, non sa neppure il nome, la incontra per caso un giorno ai giardini pubblici, la vede su una panchina, infortunata da una persona, da un giovane, e lui interviene a eliminare questo fastidio che veniva procurato a questa ragazza. La ragazza è una commessa di un supermercato. Man mano che si va avanti e si legge la storia e i due personaggi interloquiscono tra loro, si comprende che mentre da un lato il vecchio è un saggio, è un acculturato, un esperto di teatro, di letteratura, di poesia, di storia, eccetera, dall'altro lato invece la ragazza appare piuttosto sprovveduta su questi terreni, da questo punto di vista, anche un tantino ingenuo. È una ragazza di provincia che lavora in questo supermercato e che mangia il suo panino alla pausa pranzo. Ebbene, il pensionato è un personaggio che questo libro, voglio dire, mette in evidenza questa figura del vecchio, ovvero del pensionato, che sembra così, secondo certi modi di essere, di vivere, di capire, di parlare di oggi, come una persona, direi quasi inutile, superflua, una persona che quasi sempre dia fastidio, un peso per la società, un peso per i servizi sociali, una persona di cui, insomma, quanto prima sarebbe meglio liberarsi. In realtà dal libro emerge una personalità forte di questo personaggio, una persona direi quasi insostituibile per saggezza, per cultura, per presenza nella società, spesso in ruoli di supplenza a fronte di manchevolezze dei servizi sociali, eccetera. Lo vediamo tante volte come dog sitter, lo vediamo come babysitter, come accompagnatore di nipoti a scuola, in giro per corsi vari di chitarra, di inglese e di altre cose, talvolta inutili anche questi corsi. Lo vediamo come un personaggio quindi anche necessario. Questa è la novità, diciamo così, di questo romanzo, la sottolineatura dell'importanza dell'essere anziano, dell'essere vecchio oggi, una società che tende invece a dimenticare queste persone, a considerarle come un peso inutile. Bene, il rapporto tra queste due persone si sviluppa con estrema semplicità, ci si incontra giornalmente al solito posto, alla panchina lì ai giardini pubblici, e pian piano il nostro anziano, il nostro pensionato comincia a sapere, a capire qualcosa di questa ragazza che, come dicevo, appare sprovveduta, scarsamente colta, e lui da saggio anziano tende o cerca di un pochino educarla, acculturarla. Non è un compito facile perché non ci sono importanti premesse culturali in questa giovane donna. Gli incontri giornalieri, che non sono prefissati, tutto sommato non ci sono appuntamenti, ecco, voglio dire, si sa che a una certa ora lui va a leggere i quotidiani sulla panchina di questi giardini pubblici, lei va lì e mangia il suo panino alla pausa mensa e quindi ci si incontra così. È l'occasione però per il nostro pensionato per rievocare tutta una serie di episodi, di fatti, di situazioni che emergono nel suo ricordo, nella sua memoria. Sono tutti fatti che mettono in evidenza in linea di massima un passato bello, interessante, entusiasmante, no? E a confronto specialmente con l'oggi, dove spesso si vedono delle cose non propriamente simpatiche. Lui legge i suoi quotidiani, che non apprezza molto, tutto sommato, perché se si va a vedere nel libro, a leggere, troviamo spesso scritto, beh, vediamo i soliti commenti del governo che dice che la situazione economica del paese è ottima, e contrapposto invece alla lezione dell'opposizione politica al governo che dice che no, le cose vanno tutte male. Leggiamo degli extracomunitari che sempre più numerosi arrivano, e un problema che non si sa come affrontare, leggiamo poi dell'ISIS e compagnia bella. Però, dicevo, è l'occasione per queste rievocazioni di un modo di vivere, di un modo di essere di qualche anno fa, in cui si vede che non sempre le persone con cui ci si incontra, si è amici, sono, diciamo, effettivamente amici. Talvolta lo sono in modo ipocrita, lo sono in modo apparente, sembra che tutti ci si voglia bene, in realtà non è poi sempre così. Il romanzo si sviluppa attraverso capitoli brevi, non hanno titoli questi capitoli, sono numerati. La lettura è di estrema facilità, accattivante, direi in alcuni tratti addirittura avvincente. Si racconta anche di episodi, di occasioni di incontro serale, a cena con gli amici, di un certo linguaggio che in queste occasioni si utilizza, che non sempre è così, diciamo, propriamente civile, talvolta un linguaggio da caserma, così come il linguaggio che vengono usate le signore, che in gran numero sono vedove, il che dimostra che gli uomini a una certa età se ne vanno, mentre le signore rimangono belle e vegete, e magari anche disponibili a qualche simpatico approccio non del tutto propriamente culturale. Quindi è un libro, dicevo, che si legge con estrema facilità, e c'è anche una nota non propriamente, diciamo, bella, che una certa malinconia nei momenti in cui l'autore, attraverso il personaggio, delinea l'ipotesi di una vecchiaia non piena di acciacche, possibilmente, diciamo, ancora in buone condizioni di salute, e si augura in un certo modo anche che non sia eccessivamente lunga, e che quando deve arrivare il momento di andare altrove, che sia breve, che sia veloce, senza pesare eccessivamente sulle spalle della famiglia o della società. Ma è l'unica nota, diciamo così, non propriamente bella. E io non aggiungerei altro, perché tolgo spazio al nostro Ettore, il quale naturalmente integrerà e aggiungerà e completerà con il suo intervento altre cose che vuole raccontare. Vi complimento con lui e alla prossima occasione. Cosa voglio scrivere? Ho voluto scrivere quello che sento, naturalmente. Qualcuno dirà che è un'autobiografia questo libro, può essere in parte. Io penso che ogni autore parla di se stesso quando scrive un libro, perché racconta sul filo delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, dei propri ricordi. E quindi anch'io ho maturato delle condizioni che fanno parte di me e che ho trasferito naturalmente in questo romanzo, che non è localizzato a Bolzano, devo subito dirlo, perché mi sono reso conto che ho scritto troppo su Bolzano, al punto che praticamente i miei libri fanno difficoltà a uscire dalla cerchia d'anziaia di Bolzano, no? E io questa volta ho voluto spingermi anche un pochettino oltre, ho fatto le corna ai miei cari amici curco e genovese che pubblicano i miei libri e mi sono rivolto ad un editore, Morlacchi per l'appunto, che è di Perugia, nella speranza che lui riesca ad aprire nuovi mercati. Il pensionato. Ecco, cosa voglio raccontare? Voglio raccontare delle frustrazioni degli anziani, dei pensionati. I pensionati che sono considerati dei parassiti in linea generale, non tutti, non sempre, non da tutti, ma la considerazione che si ha anche attraverso la stampa del pensionato, dell'anziano, è quella di una forma di sopportazione. Noi pensionati, noi perché io sono pensionato da 21 anni, quindi sono 21 anni che gravo sui bilanci delle mutue, delle previdenze, degli enti pubblici, dello Stato, abbiamo noi giornalisti una nostra cassa mutua, eccetera, quindi ce la paghiamo noi, ma l'accezione comune è che il pensionato pesa sulla società. Lo si vede anche dal fatto che le pensioni raramente vengono conguagliate, sono sempre lì ferme e non si muovono mai. E noi stiamo lì sopportati a fare la parte dei parassiti, soprattutto. Molti termini un po' pedante, ma io ho questa sensazione. Ho questa sensazione di essere qualcuno che è di troppo. E che prevalichi sui bilanci, anche sulla pazienza degli altri cittadini. Da aggiungere una cosa, che la vita si allunga, i pensionati sono sempre di più. Una volta andare a spazio per l'età di Bolzano voleva dire incontrare giovani madri con carrozzella. Oggi le giovani madri hanno un colore brunastro in volto, sono maghrebine, sono pakistane, sono indiane, bianche, non voglio fare un discorso razzista adesso, ma di nostri affini non è che ce ne siano tanti. E i giovani virguti vengono da altre terre, noi invece facciamo parte della, noi pensionati italiani a tutti gli effetti, facciamo parte dell'esercito crescente dei vecchi, dei capelli grigi. Basta che guardiamo, mi guardo qui attorno, vedo noi due e vedo voi tutti. Siamo tutti oltre, o quasi, oltre il limite del pensionamento. Siamo dei vecchi. Allora ho pensato, nessuno ha mai scritto dei vecchi. Scusa, la signora non mi sentiva. Chiedo perdono a chi non si sente tale, neanche io mi sento del tutto tale, ma sento i limiti dell'età crescente, di questa fetta crescente dei cittadini italiani che sono sempre più pensionati, gravano sui bilanci dell'ente pubblico e anche ad andare in giro per la strada si notano tanti anziani, tanti badanti, tante persone che in carrozzella o che spingono carrozzelle, in questo caso non sono loro i figli in carrozzella, sono i nipoti, fanno parte, sono pensionati utili, perché i pensionati possono essere utili se sono nonni e se sanno essere nonni e se esercitano il mestiere dei nonni, che è quello di sopportare i giovani quando sono insopportabili e aiutarli nel curarsi dei bambini e qualche volta anche allungando qualche liretta tolta dalla propria questione, dal proprio portafoglio. Essere anziani è una cosa che sotto questo profilo avvilisce un poco. Io mi sento vivito perché vado avanti negli anni, invecchio sempre di più, adesso la porto sul piano personale. Senti che il corpo non ti risponde più come ti rispondeva una volta, si hanno gli acciacchi, i dolori qua, là, su, giù, ci si sente sempre più lontani dalla realtà attuale, dalla realtà che ci circonda e che non sempre ci convince, anzi, spesso non ci convince. Finiamo con l'essere dei brontoloni, dei grossi brontoloni mal tollerati. È una visione forse un po' pesante, un po' negativa, un po' avvilente, ma io credo che non sia una visione del tutto estranea alla realtà. Noi vecchi, per taluni rappresentiamo la saggezza e lo siamo anche, siamo saggi noi, fino al limite dell'Alzheimer logicamente, perché poi intervengono anche queste altre realtà con le quali dobbiamo confrontarci. Ci sono degli amici miei del passato che non ci sono, perché sono morti in questa sala, ci sono degli amici miei del passato che non ci sono perché non ci sono più col cervello, e questa è una cosa triste. La nostra realtà di noi anziani è una realtà in sfacelo, lento e progressivo, che personalmente mi fa sperare. Non è venuta mia moglie stasera e sotto ne sono contento, mi sento gratificato, perché se mi sente fare di questi discorsi non condivide, s'avvilisce e Laura fa di sì con la testa. Sì, ma tutti ma è la realtà che volentieri. Pensiamo che dal libro che hai scritto ti sei rivalutato, per cui queste cose mi stai dicendo è il tuo pensiero che tu hai espresso in modo positivo, almeno da come abbiamo sentito dall'introduzione del presentatore. Sì. Abbiamo capito che il libro porta questa a una sublimazione di questo fatto, a un migliore, quindi penso che devi cambiare il pasto. Però dirò una cosa, la dirò convinta, che sento col trascorrere del tempo che la parabola della mia esistenza si sta concludendo. Si sta concludendo per ora ancora bene, ma non sono d'accordo sulle vite trascinate, sull'accanimento terapeutico. Io vorrei potermene andare con un ricordo sorridente, lasciando di me un ricordo sorridente. Io un ricordo che ho della chiusura di un'esistenza è quello relativo a mio padre, che è morto molto male, non è morto dignitosamente, poverina, se n'è andato poco a poco, non capiva più niente, ed è una cosa dolorosissima, non vorrei essere ricordato. Io l'immagine che ho di mio padre, che è morto nel 73, per cui in un'epoca in cui ancora questo accanimento dell'ente pubblico, dico dell'ente pubblico, ma diciamo anche della stampa, nei confronti dei pensionati, sanguisughe non c'era ancora, ho usato un termine forte e me ne scuso, ma io mi inserisco in questa categoria. Se n'è andato in maniera tale per cui quando penso a lui lo ricordo male. Mi appare bene soltanto il sogno. I sogni sublimano. Io ho un ricordo gradito di mio padre e di mia madre e vorrei lasciare dei ricordi graditi di me, ma devo riuscire a farlo senza imporre la mia esistenza oltre i limiti del sopportabile. E quindi dico che questo discorso del pensionato va visto sotto due profili, secondo me. La categoria che come tale si espande ed è sempre più mal sopportata. Io questo lo sento. Non che sia mal sopportato io in famiglia, per esempio. Ho una nipotina che mi adora. Per fare non vorrei morire facendola soffrire, capisci? Vorrei che i miei familiari, potessero avere un domani, un ricordo di me costruttivo, non triste, sorridente, positivo. Ecco. Questa è un'aspirazione di tutti. È un'aspirazione di tutti, ma io l'ho espressa. Ecco, io l'ho espressa attraverso un libro che ha una sua originalità, che è quella del trattare il problema degli anziani, dei vecchi, dei pensionati, perché i libri che scrivono sono di avventure, di fantascienza, di amori, amori che sono sempre giovani naturalmente, qualche volta possiamo perdere. E non ci sono mai pensionati, non c'è un titolo, ricordatevi il titolo con la parola pensionato, non c'è. Io propongo qualcosa di diverso, propongo una riflessione sugli anziani, sui vecchi, i vecchi. L'unico libro che ha un vecchio nel titolo, che sappia io, è Il vecchio e il male, che è un libro che mi ha colpito ancora da ragazzo e che ho letto più volte. E che naturalmente avrei voluto scrivere io, diciamo, no? Ma ci ha pensato qualcun altro prima di me, tra l'altro, e adesso non c'entra con il ciò che sto facendo. E ho avuto enormemente emozione in passato, quando in uno dei miei tanti viaggi di lavoro in America, sono andato per lo sì naturalmente a San Valle. Hemingway, esatto. Hemingway. Allora mi sono trovato lì e lì vicino c'è il paese di Ketchum, è un paese tradizionale, vecchio, come ha da essere, mentre San Valley è la copia ridicola di Kitzbühel, fatta dagli americani con i caminetti che bruciano nelle olde degli alberghi, ma non hanno fiamma, hanno delle lampadine che simulano il fuoco, mentre c'è un ventilatore che fa muovere delle cartine trasparenti che vanno su. Sembrano fiamme. C'è una falsa Kitzbühel. Bene, a Ketchum è morto e la viveva Ernst Hemingway. Allora voglio andare a vedere la sua casa, l'ho vista, era in cima di una collina, dall'alto, occhiava sulla vecchia Ketchum, c'era la neve. E mi sono detto cosa faccio adesso. C'è il cimiterino sotto, molto bello, molto bello. Ricordava in un certo senso i cimiterini nostri di montagna. Aveva però una cosa che mi ha tenuto lontano dalla tomba, aveva nevicato tantissimo. Per cui nel cimitero c'erano solo delle tracce scavate tra la neve. E non sono riuscito a trovare la tomba di Hemingway. Allora mi sono detto vado su e mi presento, ma chi sono? Cosa dico? Non ha avuto senso. E sono tornato a valle dove ho trovato un bosco di betulle dove c'era un busto di Hemingway, un bronzo. E l'avevano messo lì perché lì lui andava a pescare, sapete che è un appassionato di pesca, no? Oltre che di caccia. Ecco, questo è stato il mio contatto. Perché ho voluto questa cosa? Così una nota di colore, perché mi riferisco per l'appunto al vecchio e il mare, che è il libro che penso tutti noi dovremmo leggere. Qualcuno magari anche il pensionato e la ragazza, così fatto per dirmi, incontrandomi per la strada, come ha fatto stamane con mi è capitato con la professoressa Fedeli, che fedelmente mi segue e che mi insala in questo momento, per parlare di queste cose. Non si parla mai di queste cose. Io mi sto forse vivendo, rattristando, parlandomi di vecchiaia, di invalidità, di pensione, di morte, diciamolo pure. Lo posso fare, ve l'ho detto prima, perché mi sento liberato dal fatto che, lo confesso, che non rattristerò dicendo queste cose mia moglie, che in questo momento non c'è. Posso fare un'osservazione? Però questo pensionato, che sembra vecchio, decrepito, e in effetti non lo è, quindi io vedo le cose in positivo, non in negativo. Alla fine, se noi andiamo a leggere il romanzo, riprende una giovane relazione, no? Di alcuni anni prima, quindi la rivive, la ripercorre, riprendono a stare insieme. Quindi alla fine cosa vuol dire? Che in fondo questi pensionati, questi vecchi non sono poi così decrepiti, hanno ancora una loro vitalità, una loro capacità di vivere e di vivere anche certe emozioni che magari pensavano di aver completamente messo da parte, abbandonato, eccetera. Non è così. Quindi io, come si dice, penso positivo, ho teso a vedere in questo romanzo, non, certo ci sono questi aspetti che tu hai ovviamente sottolineato e volevi farlo, però ho voluto vedere anche delle altre cose sotto un altro versante. Tutto sommato tu parli spesso della utilità sociale degli anziani, quando io accennavo prima al fatto che si impegnano ad accompagnare i propri nipoti a scuola, ai vari corsi pomeridiani eccetera, magari portare a spasso il cane, quei cani che tu sembra non ami molto perché dice che sporcano le strade eccetera eccetera, vabbè. Ma tutto sommato con tutte queste cose, questo impegno sociale da parte del pensionato c'è, fuori dubbio, senza dimenticare che spesso la propria pensione in euro serve a rimpinguare gli stipendi o i salari non troppo cospicui dei figli o dei nipoti, e sono aspetti che anche questi vanno sottolineati in positivo, tutto sommato, senza contare che questi anziani sono possessori di una saggezza, che nasce dalla loro esperienza di lavoro, dalla loro cultura, spesso acquisita anche sul campo. Tu stesso personalmente hai lavorato per tanti anni alla RAI, sei stato all'estero, ne racconti, ne hai raccontato in tante occasioni. Ma tutto questo, tutto sommato, l'anziano lo mette a disposizione dei giovani, di quei giovani che oggi sembrano tanto frettolosi, che non hanno mai tempo, sono sempre con lo smartphone in mano, sono lì a pigiare, a tastare per inviare messaggi, ricevere, eccetera. E tutto sommato questo anziano, che io preferisco chiamare anziano, non vecchio, perché vecchio sembra quasi, come dire, un appellativo non simpatico, questo anziano serve molto nella società di oggi. Io ringrazio molto Vito Mastroia che ha rimesso in piedi le mie parole in senso positivo. Non ho detto che sei stato bravo, è stato. E non avevo detto una cosa che avevo citato Hemingway, perché là anche la casa si è sparata. Ecco, questo è un altro risvolto, la tristezza dell'anziano, la tristezza del vecchio. E pensate a tante persone che hanno cessato di vivere volontariamente, che mi viene da pensare a santo, quello scrittore ebreo che ha passato la sua guerra in campi di sterminio italiano, Primo Levi. Sì, potrebbe essere una soluzione quella, e a un certo punto credo che il nostro anziano, quello più vecchio, ne parli e pensi alle possibilità offerte dalla medicina, da una certa medicina in Svizzera, in Olanda, dove si può andare per farsi addormentare per sempre. Potrebbe essere questa, per esempio, un'ipotesi di fine dignitosa, ho pensato io, qualche volta l'ho pensato, che non vuol dire che io non ho figli in casa, però. Ma infatti tu lo dici nel romanzo, cioè Hemingway ha chiuso la sua esistenza in quel modo che hai detto che sappiamo. Mi pare aveva 62 anni, se non erro, quando lui si è suicidato. Ma tu dici nel tuo romanzo che non solo non hai fucile, non hai armi, ma non hai tantomeno voglia di usarle se le avessi. Ma io penso che a parlare di queste cose, come sto facendo io, è anche un modo per sublimarle, per andare oltre i propri timori, le proprie angosce. Ci penso spessissimo, è vero, dimmi Laura. prima, adesso mi viene in mente, ho letto proprio 2 giorni fa su una biografia di Primo Levi che forse si è suicidato, non si sa, e 2 giorni fa l'ho trovato, ma io volevo dire un'altra cosa, io conosco Ettore Frangipane da quando? Da bambina alle scuole elementari compagni. L'ho sempre pensato e considerato, non è che ci trovavamo tutti i giorni negli anni che passavano, sempre comunque qualcosa di una persona positiva. Adesso mi sono un po' meravigliata. Adesso voglio dire di me, io sono vecchia, sì, sono vecchia, ma io mi sento molto positiva, io mi sento molto, ma sì, sarò vecchia, sono. Intanto non credo di pesare, ha detto che pesiamo anche sullo Stato per la pensione. Ah, io ho lavorato 40 anni, io non so se qualcuno dello Stato può venirmi a dire che io, insomma, ho lavorato 40 anni, ci hanno sempre detto che ci veniva di diritto quella pensione. A parte questo, è vero. Ho lavorato 40 anni, però ogni anno, vabbè, a parte questo. Ma te la fanno pensare, te la fanno pensare. Ma chi ha l'Italia? I programmi di loro, però. Non lo sai di bilanci in tasca. Chi ha l'Italia? Ma io non mi voglio ascoltare. È un problema di loro, non nostro. Ma si riflette su un loro problema. A questo volevo dire, non tanto della pensione materiale, ma proprio spiritualmente, io mi sento ancora molto positiva, intanto che devo morire lo so da sempre, come credo tutto quanto, perché dovevo trascorrere tutta una vita con la tristezza, appunto, perché devo trascorrere tutta una vita con la tristezza, devo morire, non mi fa triste affatto, oddio, non so come andrà a finire, ma adesso non sono triste col pensiero che devo morire, ma sapendo che è io ho provocato che ho indotto alla discussione e se non altro ci penserete stasera, perché se magari un po' cosa racconta qualità. Perché io penso che sia una cosa alla quale bisogna sia necessario pensare. Noi dobbiamo pensare alla nostra situazione attuale di esseri felicemente diversi, ma spostare i nostri pensieri anche forse vedere un po' come andrà, non lo so, io sono alquanto pessimista al riguardo e vi auguro che siate più ottimisti. Noi lo saremo tutti. Volevo ricordare che domani sera Ettore sarà alla Galleria Espace a presentare un intervento sulla Bolzano anni 20, Galleria Espace via Orazio, domani sera alle 18. Voglio ricordare un'altra cosa, se mi consentite, Via Orazio partendo da Piazza Tribunale, si va su poco dopo a sinistra, quasi di fronte alla farmacia comunale, avete presente? Ecco, un altro annuncio per fare, se mi consentite, venerdì 27 alle ore 18:30 presso il Circolo Cittadino, noi come associazione scrittori Bolzano, in collaborazione con il Circolo Cittadino, promosso e pubblicato da loro, presenteremo un libro, un romanzo molto particolare di un'autrice che non è conosciuta qui in questo territorio, che è una bolzanina però, e che però vive a Dubai. Si chiama Melanie Francesca, presenta il suo ultimo romanzo, il tredicesimo, che è intitolato L'Occidentale. E alle 18:30, venerdì 27 di questo mese. Grazie. Vi ringrazio di essere qua intervenuti, non vorrei avervi rattristato o di sopportare le vite. Pensate a me con un sorriso. Pensiamo positivo.